trovi la pace quando noi ce ne andiamo di qua, quando del nostro chiasso rimane solo il fumo di qualche falò, vecchio mare gelato e schiumoso, ogni anno ti lascio così, mentre affondo tra mille ricordi, trascinati da questa marea. Non solo il calore, ma le nostre città. Torneremo nel bene e nel male, sarà di nuovo più estate che qualcosa di più.